Adesso ho un ospite di particolare riguardo, una donna, una roulotte. Moira Orfei, pronto Moira? Pronto, buongiorno. Buongiorno Moira, dove si trova in questo momento? Siamo a Cesenatico col circo. Ah, Cesenatico. Al mare, sì. Ah, ma non siete in fase di trasporto da una zona all'altra, non andate da nessuna parte, siete fermi lì adesso? No, siamo fermi adesso, debuttiamo questa sera. Ah, ecco. Moira, noi stiamo parlando di vacanze in roulotte. Il mio è una grande caravan, è lunga 24 metri, quando si ferma, idraulicamente si apre e diventa 8 metri. Sì, ma cosa fa? Si restringe? Sì, è apposta, no? Sì, ma i mobili che ci sono dentro, i mobili, cosa succede ai mobili? Ah, è una cosa fatta, se la vedesse lei rimarrebbe incantato. Ma a me piacerebbe tanto vedere questa roulotte a fisarmonica che si chiude. Ma ormai sarà... Quanti anni sono che abita? Cioè, non voglio sapere il numero esatto, ma sono tanti anni che lei vive in una roulotte. È tutta la vita, quando sono nata. Io non sto in una casa, non ci sto, non mi piace. C'ho una villa a San Donà di Piave, ma la vedo da fuori. Ah, non è mai neanche entrata proprio? Sì, sono entrata, ho dato l'occhiata e ho detto, mamma mia, aspetta che scappo. È ferma, non si muove. Sono una vera zingara io. No, comunque sì, perché il circo comunque deve spostarsi da una parte all'altra, ma anche quando il circo è fermo, ci sono dei periodi in cui il circo è fermo? No, noi lavoriamo 365 giorni all'anno. Moira, un'ultima cosa, ma lei quando va a salutare gli elefanti la riconoscono ancora? Sì, ecco. L'elefante ha una memoria, è una cosa spaventosa. Io sono stata via, ho avuto un incidente stradale nel 2000, no? Sì. Sono stata via 6-7 mesi all'ospedale e quando sono tornata hanno cominciato a urlare, a barire, e sono scappati tutti da paura. E invece no, era semplicemente una festa che avevano organizzato gli elefanti. Mi hanno riconosciuto subito, immediatamente. Certo. Moira, grazie tante, buona continuazione.